è con molto piacere che presento questa iniziativa. Presentiamo questo libro, Inchiesta su Gramsci, curato dal professor Angelo Dorsi, che abbiamo l'onore di ascoltare. Questa sera, io, visto che è già tardi, mi limito soltanto a introdurre il tema della serata. Il libro appunto analizza la vita e l'opera di Antonio Gramsci, grande intellettuale del Novecento italiano. E l'iniziativa è promossa da tre soggetti. Il primo, il laboratorio Lapsus, di cui faccio parte anche. Il secondo è il Centro Culturale Concetto Marchesi, che ospitiamo, che ringraziamo per l'ospitalità. Mentre il terzo è appunto una realtà che vi verrà spiegata adesso successivamente, un po' più complessa in realtà. No, è Storia Magistra, è una rivista di storia torinese, che però è inserita all'interno di un progetto più ampio che vi verrà meglio illustrato. Storia torinese, scusa, suona malissimo. Perché? È una cosa provinciale, no, riformo, nel senso che ha una sede centrale torinese, ma anche sedi distaccate, e questo rende insomma la rivista un progetto molto più ampio. Sì. No, beh, siccome io comunque non devo sicuramente entrare nel merito, io insomma dell'intellettuale Antonio Gramsci insomma parleranno gli ospiti che sono insomma autorevoli, hanno molta più competenza di me per farlo, quindi passerei subito la parola alla... Vabbè, vi presento ovviamente gli ospiti, ovviamente. Abbiamo alla mia sinistra il professor Colombo, professore emerito di storia delle dottrine politiche presso l'Università di Studi di Pavia. Francesca Chiarotto, dottore di ricerca in studi politici presso l'Università degli Studi di Torino. Il professor Zarantoni, che è uno storico delle idee, dei movimenti sociali. Io ho avuto anche modo di seguire un corso con qualche suo contributo qualche anno fa a Milano, un corso del professor Vigorelli. Su Gramsci. Su Gramsci, certamente. Storico ed editore, certo. E il professor Angelo Dorsi, ordinario di storia del pensiero politico, delle dottrine politiche, sempre presso l'Università degli Studi di Torino, e curatore del volume. Dunque, io passerei subito la parola a Francesca Chiarotto, che ci illustra un po' il progetto del libro. Essendo lei la coordinatrice centrale della rivista, sicuramente ci spiegherà un po' il senso che ha tutta questa iniziativa. Prego. Grazie. Prego. Allora sì, io innanzitutto ringrazio il professor Colombo e Marco D'Antoni per aver accettato di presentare il volume, che è un volume a cui teniamo molto, e ringrazio allo stesso modo Ciro Duvizio, Anna Ferrando, tutti i redattori e le redattrici della redazione milanese di Storia Magistra per aver organizzato l'incontro. Il professor Dorsi non lo ringrazio perché lo ringrazio tutti i giorni, quindi non è il caso di... e poi evidentemente ringrazio anche il circolo che ci ospita, e oltretutto appunto non mi pare fuori luogo, visto che siamo al Circolo Concetto Marchesi e che parliamo di Gramsci, ricordare quanto importante sia stato il ruolo di Marchesi proprio nell'assegnare alle lettere dal carcere di Gramsci il premio Viareggio nel lontano 1947, e quello fu proprio il momento in cui Gramsci venne offerto al mondo, non solo degli studi, ma diciamo al popolo italiano, con tutte le conseguenze che poi conosciamo. Quindi mi faceva piacere ricordare questo evento, perché davvero dalle testimonianze, dagli studi che ho fatto, se proprio emerge il ruolo di Concetto Marchesi come fondamentale nell'assegnazione di quel premio. E dunque, allora, prima di dire qualcosa sul volume, adesso magari poi in un secondo giro entrerò nel merito anche del mio saggio, volevo appunto dire qualcosa su Storia Magistra, che appunto rientra in un progetto decisamente più ampio e che, diciamo, in questa forma cartacea grafica con l'editore Franco Angeli inizia nel 2009, però appunto è strettamente connessa all'associazione Storia Magistra, che prende invece vita nell'anno 2000 proprio su un impulso di alcuni studenti del professor Dorsi, che alla facoltà di lettere appunto seguivano con lui il corso di metodologia della ricerca storica, se non sbaglio, e che appunto gli chiesero proprio di costituire un'associazione, un seminario permanente in sostanza per vigilare sugli usi pubblici della storia. E quindi appunto si costituì questa associazione, che è proprio l'Associazione per il diritto alla storia, questo è il marchio registrato. Prima stampavamo un piccolo bollettino appunto, diciamo, artigianale, però mi pare che anche in quella fase, insomma, cercavamo di fare aurorale, facevamo delle inchieste interessanti, mi ricordo quella sul negazionismo, che appunto coinvolgendo tutta una serie di studiosi cercavamo di sviluppare, di battere un po' sul tema che allora era abbastanza in voga. Appunto, la caratteristica fondamentale della rivista è proprio l'attenzione agli usi pubblici e politici della storia. Però, ecco, un'altra cosa che mi fa piacere sottolineare è il fatto che, oltre ad essere per i giovani e meno giovani un po' un luogo di formazione, un laboratorio di una scuola proprio per tutti noi, in realtà appunto in quasi tutte le redazioni locali, che sono 6, ci vantiamo di questa peculiarità, perché abbiamo Milano, Bari, Lecce, Roma, Perugia e Firenze. E cerchiamo insomma di espanderci sul territorio, adesso puntiamo alle isole e comunque in quasi tutte le redazioni sono rappresentate ben 3 generazioni di studiosi, quindi insomma questa mi sembra un'altra caratteristica importante. Siamo una rivista schierata a difesa della storia e appunto attenta agli usi e agli abusi che di questa quotidianamente siamo vittime. Tra l'altro mi fa piacere oggi ricordare, visto che siamo in fase di celebrazioni, anche se il termine non mi piace tantissimo, della Resistenza, siamo nel 70°, il messaggio che oggi Mattarella ha voluto dare al Presidente della Repubblica, cercando appunto di mettere cioè di dire la sua appunto contro il revisionismo, che anche sappiamo bene verso la Resistenza negli ultimi anni stiamo assistendo, no? Per cui appunto anche lui ha sottolineato come sia importante distinguere i morti della Resistenza, i partigiani e i morti che stavano dall'altra parte, no? Adesso non voglio entrare troppo nel merito, ma comunque mi fa piacere sottolinearlo, mi fa piacere sottolineare come anche lui abbia appunto messo l'accento sulla moralità della Resistenza, che insomma è un concetto che mi pare sia importante mettere un po' in evidenza in questo paese, no? Va bene, abbiamo una serie di rubriche, come dire, più specifiche proprio sugli usi e gli abusi della storia, per esempio l'Osservatorio sull'uso pubblico della storia, poi abbiamo riviste di cinema, di chiaramente ci occupiamo, teniamo sotto controllo anche il web, perché sarebbe impensabile non farlo di questi tempi. E poi vabbè, abbiamo delle sezioni più tradizionali, una di quelle insomma più più tradizionali, questi lavori in corso, in cui appunto presentiamo i nostri lavori di ricerca in progress, noi e evidentemente chi intende scrivere su Storia Magistra. Anche il volume che oggi presentiamo, appunto Inchiesta su Gramsci, Quaderni scomparsi, abiuri, conversioni, tradimenti, leggendo verità, rientra nel progetto di Storia Magistra, infatti è il primo volume della collana della BHM, Biblioteca di Storia Magistra. Allora, l'occasione contingente, diciamo, per cui il professor Dorsi ha pensato di di curare questo volume è stata la traduzione nella primavera del 2014 del primo volume della trilogia l'opipariana su Gramsci, che in realtà è un volume del 2012 e si intitolava esattamente i due carceri, punto, la prigione fascista e il labirinto comunista. E già dal titolo si capisce di cosa parla l'opiparo, col quale tra l'altro l'autore vince il premio Viareggio, il premio che era in 1947 spettò alle lettere al carcere di Gramsci, quello a cui facevo riferimento prima, una specie di nemesi storica impressionante, non quasi grottesca. E quindi adesso appunto l'opiparo, per dirla veramente molto in soldoni, sostiene appunto i due carceri, da una parte il fascismo, dall'altra il comunismo. Ma poi lui va oltre, perché nel 2013, dal momento che aveva avuto così successo il primo volume, ne scrive un altro che si intitola invece L'enigma del quaderno, punto, la caccia ai manoscritti dopo la morte di Gramsci. E qua compare il quaderno scomparso, paradossalmente anche in questo caso, e da lì è partito tutto il dibattito che forse appunto qualcuno di voi avrà seguito. Quaderno scomparso che ovviamente stava a sentire avrebbe rubato, comunque sottratto Togliatti molto probabilmente, in quanto cattivo per antonomasia. E quindi appunto Angelo Dorsi ha deciso di coinvolgere una serie di studiosi di Gramsci. Hanno poi risposto al nostro invito 26, ma in realtà contavo, mi pare che siano 47 quelli che abbiamo contattato, poi alcuni, insomma, per varie ragioni, non tutti evidentemente hanno trasmesso il loro contributo. E quindi appunto è stata l'occasione per discutere un po' di questi temi, e l'abbiamo fatto somministrando appunto a coloro che hanno risposto un questionario composto da 12 domande alle quali si poteva rispondere, diciamo, più o meno liberamente, nel senso che uno poteva concentrarsi su 2 o 3 domande, rispondere a tutti, insomma, da questo punto di vista era abbastanza libero. Adesso non so a leggere tutte le domande, segnalo solo diciamo i punti fondamentali che abbiamo pensato di approfondire. E uno in generale, la prima domanda in generale chiedeva appunto quali fossero le leggende che gravano su Gramsci, perché diciamo che veramente a partire dal giorno dopo della pubblicazione dei primi scritti di Gramsci, queste leggende hanno cominciato subito a prendere piede, le censure di Togliatti, del Partito Comunista, addirittura la stessa vittoria del premio a cui facevo riferimento prima, per cui i giurati sarebbero stati in qualche modo manovrati appunto dai dirigenti del PC, eccetera. Un'altra di queste leggende che ciclicamente viene fuori è il contrasto appunto Gramsci-Togliatti, a partire dalla lettera del 26 e andando avanti. Il ruolo della famiglia Schutt, in particolare di Eugenia, in quanto non solo, anche Tania, agenti del Comintern, eccetera. La scomparsa di questo quaderno che non si trova, il quaderno nel quale Gramsci avrebbe abiurato in sostanza tutta la sua vita, il comunismo, eccetera. E poi vabbè, c'era una domanda un po' più generale sulla storia sacra, la storia indiziaria, se sono legittime, se sono lecite, in che termini e come. Io per ora mi fermerei qui, così appunto diamo la parola agli altri e poi eventualmente prenderò la parola per dire qualcosa di più. Sì, dico soltanto, aggiungo soltanto una cosa, trovate sia il libro che la rivista sul banchetto qui sulla destra. Ho portato 40 kg da Torino, vi prego, non ce li fate riportare tutti indietro. Esatto. Ma vengono venduti a prezzo speciale o sì. No? Sì. No, cioè, il volume è il prezzo di copertina. No, le riviste sì. Le riviste sì. E il volume non possiamo perché non sono nostri. Ma non è pieno. No, dopodiché io passerei la parola al professor Colombo che ha letto il libro e elaborando anche credo un'analisi approfondita. Se riesce a illustrarci i nodi principali. Allora, anzitutto bisogna, a mio avviso, stabilire qual è l'obiettivo che si proponeva a questo libro e che è già indicato da poche frasi che si trovano alla pagina ottava dell'introduzione. L'intento è quello di fare un po' di luce sui problemi reali delle ricostruzioni biografiche su Antonio Gramsci, sull'interpretazione del suo pensiero, senza posizioni pregiudiziali, ma anche di sgomberare il campo dalle troppe inutili erbacce che inceppano la ricerca storica, la quale è volta incessantemente ad aggiungere, correggere, revisionare, e la revisione, vale la pena di ribadirlo, è l'anima stessa della storiografia, suo inevitabile e necessario strumento di lavoro che si differenzia, anzi si contrappone al revisionismo, che non è invece una pratica storiografica, bensì ideologica. Questa indicazione, con un chiaro anche sottinteso polemico, corrono per tutti il libro. Se dovessi proporre un titolo alternativo rispetto a questo pur efficacissimo, questa inchiesta su Gramsci, io proporrei un Gramsci a più voci, perché, come ha già detto bene, si tratta di ben 27 contributi indicati fin dal titolo generale fra leggende, storia indiziaria, storia sacra e qualche verità, dove è un titolo anche lievemente polemico, perché la verità di questo testo... Che cosa? Puoi insinuare che ci sono delle polemiche? Non ci sono polemiche. Ma neanche per il piaccio, ma tutto quanto è anche tutto... Ormai ci conosciamo da molto, in forza come di carte. E allora, il pluralismo degli approcci non sempre rigorosamente documentati, ma sempre stimolanti, anche se lasciati alla libertà interpretativa di ogni singolo autore. Basterebbe l'indicazione di due tra questi casi, quello di Saverio Luzzi, Gramsci, La pecorella sbarrita, e l'altro di Francesco Lopiparo, Le tre leggende su Gramsci. C'è evidente un obiettivo costante che uno dei collaboratori, cioè Gasperi Polizzi, indica bene fin dal titolo del suo saggio, restituire Gramsci a se stesso, cioè sottrarlo a quella politicizzazione che fatalmente implicava anche una deformazione, per esempio la strumentalizzazione da parte di Togliatti, in conseguenza, come non pochi storici legati al PC siano poi diventati degli storici al servizio degli obiettivi perseguiti dal PC. Ora, tale studio strumentale della storia è sempre criticabile, perché non è mai o quasi in grado di produrre, vale a dire di dare vita a contributi autenticamente obiettivi. Tra i saggi per me di maggiore interesse, perché poi ognuno lo saprà leggere il saggio di Raul Mordenti sui nuovi nipotini storiografici di padre bresciani, titolo già di per sé stesso di una Interrompo per fare una rivelazione, per dirle che tutti i titoli, indovini chi li ha... No? Si scrive, non titola, ma... io che quando la prima volta che ho cominciato a collaborare con i miei, e consegnavo i miei pezzi a un personaggio della fama, Zottino Busati, diceva: se uno consegna il pezzo già con un titolo, cominciamo subito a sapere il titolo che non bisogna dare. E allora li via. E poi naturalmente ci prendevano due o tre titoli, poi c'era il relatore superiore di questi, ne prendeva due, poi ne dava al direttore che diceva, per carità, allora si ritornava indietro, eccetera, eccetera. Allora dico, per me, saggi di maggior interesse sono uno, quello di Raul Bordenti, nuovi nipotini storiografici di padre Bresciani, e poi altrettanto stimolante quello di Darek Botman, che ha ragione quando sottolinea l'esigenza di collocare Gramsci nel contesto internazionale, che vuol dire non insistere sul suo presunto isolamento, specie nel periodo in cui era in carcere, così da farne, come dice e spiega molto bene Saverio Luzzi, una sorta di pecorella sbarrita. Scusate, io cito i vari saggi perché credo che questa sia la funzione di chi presenta, oppure può essere un'altra, come diceva Luzzi, andare a presentarne senza neanche averlo aperto. Così sei sicuro che alimenti un dibattito di una tale serie di fesserie che anche se non chiamo di nuovo Luzzi, che scusi, invece io ho imparato da un maestro della ferocia di Bruno Leoni, perché Bruno Leoni dopo 5 minuti, quando diceva se lei chiude la bocca e apre un po' il cervello per leggere meglio, la volta prossima, la volta successiva non va lezione, la successiva va in un minuto. Lei forse non è molto perché ti viene offeso, anche quando ci fanno lezioni non ci si viene offeso. Allora, le leggende su Gramsci sono tante e spesso sono anche infondate, e da questo punto di vista ha ragione la Francesca Chiarotto, non la cito perché era già stabilita, quando illustra i molti equivoci e la troppa disinvoltura con cui spesso si è trattato di Ossù Gramsci. A mio modo di vedere, io ho trovato interessanti le pagine di Alexander Oebel, una offensiva politico-culturale, perché chiama in causa soprattutto il complesso rapporto tra Gramsci e Togliatti, così come il rapporto tra Togliatti e Gramsci torna, seppure con un taglio diverso, nelle pagine di Marcello Montanari, che affronta un altro nodo complesso riguardante la revisione, o come lui dice, la reinvenzione del marxismo da parte di Gramsci. Non c'è che ci sono una quantità di saggi che danno qualche stimolo orientativo, interpretativo. Io, per esempio, ho trovato di grande interesse, non so quanto ortodosso, ma ricco di osservazioni stimolanti, il saggio di Angelo Rossi, un eretico che non avviò il comunismo. E poi perché per me, ma non c'è qui Rossi, quindi c'era un fatto di correttezza che permette di intavolare una discussione. L'altro, altrettanto, secondo me, ricco di riflessioni o osservazioni stimolanti, è il saggio di Pasquale Vozza, fra intendimenti e mistificazioni che soprattutto serve a chiarire un rapporto, spesse volte indicato come equivoco, il rapporto tra Turati e Gramsci o tra Gramsci e Turati, che costituisce uno dei nodi ancora al giorno d'oggi storiografici importanti. Ma potrei continuare, perché ce ne sono parecchi di temi e problemi che coinvolgono Gramsci nella molta vita dei suoi rapporti, sia da vivo, sia poi nelle interpretazioni che nei testi delle Gramsciane ci fa. E questo direi è un ulteriore elemento di grande interesse, che questo libro a più voci, che questa inchiesta di vari interpreti offre non solo a noi oggi, ma secondo me avrà ancora più utilità e più stimoli nel futuro, non solo prossimo, ma ancora del tuo. Ma tu pensa che roba, ha letto il libro. Io appartengo all'altra categoria. Ma non è mica vero, scusami, l'abuso è invitato a illustrare un libro di cui è un po' la guida, il coordinatore, un collega, ma soprattutto un amico come Dotti. Vuoi che non legga sapendo che poi dopo parli tu e quindi una serie di giuste, sacrosante osservazioni, critiche o magari ipercritiche, non mancherete certo di farle. Invece io con il libro ho trovato che, ho trovato soprattutto che il libro è interessante a leggerlo non seguendo niente, ma inizialmente seguendo i tuoi interessi e poi vedendo i coordinamenti o anche certe volte i contrasti che tra un autore e l'altro. E questo è un ulteriore elemento positivo che garantisce l'assoluta autenticità dei saggi. Nessuno poi è stato costretto a dire qui a Dolcino, Grafia un po' di più, tanto il nome, perché questo è un autocollaboratore, cose che poi nell'Accademia sono di certezza quasi assoluta, o quasi con un sottile manico così. E io ringrazio il professor Colombo che ci ha regalato un intervento insomma abbastanza aperto, insomma, a ventaglio. Definire questo libro una panoramica, appunto, a più voci, è credo sia un modo molto efficace per definirlo. Fra queste voci c'è anche quella di Marzio Zanantoni, che abbiamo modo di ospitare questa sera, e che affronta chiaramente uno dei problemi, insomma, tra gli studi gramsciani da un suo peculiare punto di vista. Non so se se vorrà illustrarci quello di cui parla nel libro, o se farà una panoramica un po' più ampia. Però io, insomma, gli cederei la parola e lo ascolterei. Dico quello che vuoi. Dico quello che vuoi. Grazie tanto dell'invito a questo circolo che è stato fatto, che io volentieri partecipo, non solo perché compartecipe di questa però io vorrei soffermarmi su due punti specifici che sono quelli relativi, cui anche nell'intervento ho parlato, sono quelli relativi alla questione della legittimità e dell'uso della storia sacra e alla questione posta, sono le ultime due domande di fatto dell'inchiesta, alla questione posta appunto da Angelo sulla licità, in qualche modo, della storia indiziale. Questioni di fondo, metodologiche, ma che ovviamente hanno poi una ricaduta anche molto concreta nelle scelte sulla ricerca. Ma prima di questo, prima, voglio fare una premessa, cioè, relativa all'introduzione di Piaggia. Devo dire che ci conosciamo da tempo, conosco Angelo per le sue posizioni ben determinate, precise, rigorose, e questa introduzione, tra noi non c'è bisogno, appunto, non abbiamo nessun interesse di complimenti, ma devo dire che questa introduzione è una delle cose più belle che Angelo ha scritto, a mio giudizio, e soprattutto dillo forte, lo so che è la verità, e dico bene nel senso della, da un lato, della piacevolezza della lettura, e dall'altro lato, cosa poi ancora più importante, perché è una delle cose più condivisibili dal mio punto di vista che ho trovato tra le cose lette negli ultimi anni. Che cosa è condivisibile per me, almeno fondamentalmente, spero non solo per me, perché sono temi che Angelo qui ha trattato veramente di fondo, e cioè la questione, diciamo così, di un'apertura totale, vorrei persino dire liberale, alla ricerca. Alla ricerca, usando termini, le citava prima il professor Colombo, non usuali da parte nostra, che è quello di revisionare, di revisionismo. Ecco, è forse la prima volta, una delle rarissime volte, in cui trovo questa esigenza metodologica ed esigenza anche, penso anche etica, relativamente alla ricerca storica, messa in questo modo da chi proviene da una storia che conosciamo, che sappiamo, che abbiamo vissuto, e che quella parola ci ha sempre spaventato, comunque era da cogliere, o addirittura da non cogliere, e comunque da cogliere con molta resistenza, perché, lo si diceva prima, questo libro ha un'occasione particolare, di massima, insomma, che è quella non tanto di una risposta quanto di prendere atto delle sollecitazioni legittime che in particolare Lo Piparo, Franco Lo Piparo e Luciano Canfora, che non dimentichiamo che è poi con altrettanta importanza e credo con meno risalto pubblicitario, Canfora ha posto in maniera ancora più legittimata dalla sua specializzazione, dalla sua storia, dalla sua tradizione, eccetera, che non Lo Piparo. E dare, non penso che sia cosa da poco. Comunque, dare la possibilità allo Piparo di leggere prima le risposte, in modo che la persona che si sentiva accusata che vive questo stato d'animo psicologico, ma anche giustificato, perché certamente la reazione dei gramsciani complessi la conosciamo, sappiamo quanto è stata pesante nei suoi confronti, e quindi la cosa pesa per una persona che è sempre stata molto poco alla ribalta, che si è avventurato in maniera un po' scriteriata anche in questo, nella ricerca dei quaderni per tutti, diciamo così, più dell'arca, ma dei quaderni per tutti. E quindi dargli questa possibilità di leggere in anteprima, se non ci fosse stata questa introduzione, se non fosse così liberale questa introduzione, sembrerebbe avrebbe un significato diverso, secondo me, sarebbe stata interpretata come magari una sorta di concezione strumentale o comunque a fini così, non scientifici. Qui invece, ecco, questa apparente concessione questa, si inquadra in un processo mentale, in una strategia di ricerca descritta, ripeto, benissimo in questa introduzione, che mi è piaciuta molto e ripeto, ha dentro di sé delle questioni assolutamente condivisibili. Ma lo dico ancora di più perché appunto, conoscendo Angelo, conoscendo la sua storia, sapendo da dove veniamo, noi porre oggi in questo modo di fronte a una comunità poi che ha così rigidamente risposto a degli attacchi al monumento Gramsci non è stata cosa da poco. Quindi questo mi ha molto... Dopo Gramsci liberale abbiamo anche Dorsi liberale. Abbiamo anche Dorsi liberale, quindi tienete conto. Ecco che... Vengo adesso alle due questioni invece che... su cui dico due parole in maniera un po' più specifica. La questione della storia sacra. Ora la domanda... E la posta così, ritiene che la storiografia che si è occupata finora del PC e di Gramsci si possa prevalentemente collocare nei ranghi della storia sacra? Ritiene che la storia sacra e un suo uso pubblico abbia comunque una sua legittimità? Da quale punto di vista? Ecco, il tema della legittimità della storia sacra. Ora, la storia sacra, io lo rispondo a posto anche così, è stata utile. Non solo è stata utile perché è legittima o legittima perché è utile, sembra un circolo vizioso ma ha un suo senso secondo me, perché ha costruito un'immagine, ha costruito un'identità, ha costruito una storia, ha costruito una tradizione. Ora il problema che io qui ho posto e che mi pongo ulteriormente qui è necessario rivedere, revisionare la storia sacra? Certo che è necessario. Mi pongo il problema se noi in qualche modo, noi che in misura assolutamente diversa per importanza, per qualità, per quantità, eccetera, in qualche modo l'abbiamo fatta o a cui abbiamo partecipato, non con le sue scelte, le sue responsabilità, i suoi momenti, se noi siamo i più adatti a operare questo revisionismo. Ora io faccio un caso particolare che mi è venuto in mente, lo faccio perché appunto mi è venuto in mente il collegamento ora quando sono qui col circo concetto, marchese, di una figura che da un anno circa a cui ho a che fare, che era persona molto vicina al concetto marchese, che era Antonio Banfi. Allora, Antonio Banfi ha una sua storia sacra, non c'è alcun dubbio. Il problema è che documenti nuovi e soprattutto domande nuove rivelano, aprono un'altra storia. Un'altra storia che è un po' diversa dalla storia sacra. Ed è la storia di Banfi, ma vale per tutta la costruzione, per tanta costruzione del Partito Comunista in questo caso, come tutta la storia della sinistra. Ed è il caso dei suoi rapporti col Partito Comunista, ed è il caso dei suoi rapporti con Giovanni Gentile, che delineano non tanto un'altra storia, ma delineano qualcosa che si insinua nella storia sacra. Ora, il problema che mi pongo, mi sono posto, che pongo è come trarre il massimo di revisionismo da documenti e domande nuove che sorgono nel momento in cui scopriamo documenti nuovi o abbiamo curiosità nuove. Io credo che noi in parte siamo capaci di farlo. Siamo capaci in parte perché siamo troppo dentro quella storia. L'abbiamo parte costruita, chi l'ha costruita, chi l'ha studiata, chi l'ha assimilata, chi ce l'ha dentro, più che come un abito. E allora c'è la necessità che siano altre generazioni, necessariamente, mio giudizio, a porsi quelle domande, o semplicemente a porsi delle domande. Ma qui, secondo me, c'è il problema appunto del revisionismo, di un revisionismo buono e di un revisionismo cattivo. Allora, c'è un revisionismo, a mio giudizio, cattivo, e insomma, il caso della rivista di Perfetti e della strategia editoriale della creatrice delle lettere è questo. Nuova storia contemporanea. In che cosa è cattivo, secondo me? È cattivo perché rifiuta a priori la storia sacra. La rifiuta perché? Perché ritiene che quella storia non abbia niente di scientifico, sia stata costruita ad uso dei militanti, ad uso di un'immagine, ad uso di una tradizione, e di scientifico abbia ben poco, se no nulla. E quindi per loro si tratta di rifiutare quella storia e di ricominciarne un'altra, come se loro fossero all'altezza di Striano, Cantimori, Malacorda, Procacci, Ragionieri, eccetera eccetera. Il livello è ben diverso, ma ripeto, anche non è solo questione di livello, è questione di come ci si pone. E quindi io penso che esista anche un revisionismo buono, è il revisionismo di nuove generazioni, che può sembrare forte quello che dico, un termine forte, ma che a mio giudizio per prima cosa devono accettare quella storia sacra. Accettare quella storia sacra non vuol dire accettarla dogmaticamente, ma conoscerne le motivazioni, conoscere il perché c'è stata quella storia, chi erano le persone che l'hanno fatta, chi erano quegli storici, perché non erano persone, avevano alle spalle una valenza civile, oltre che politica in senso stretto, di cui va assolutamente tenuto conto. Quindi accettare quella storia non è accettare dogmaticamente quella storia, è accettare che esista quella storia. Vanno comprese le motivazioni, va compreso il contesto storico entro cui è nata e va studiata, cosa non indifferente, va studiata. Da lì si parte, da lì si revisiona, da lì ci si pone nuove domande. E allora io concordo con quanto qui viene anche riportato, il blog, prima c'è il documento, no, prima c'è la domanda. Allora, il documento è anche un libro di storia, però non ci si accontenta, si cerca di capirlo, di studiarlo, non ci si accontenta e ci si pone le domande. Per rispondere alle domande si va ai documenti. E qui c'è la questione della storia indiziale. Ora, io qui sono stato uno dei pochi di fronte a un coro maggioritario di respingenti della storia indiziale, o comunque di dubbiosi della storia indiziale. Io qui non a caso mi sono fatto forte di un nome, quello di Carlo Ginzburg, che in qualche modo mi è servito per dare una legittimità alla mia convinzione della laicità della storia indiziale. E questo famoso saggio, appunto, al di là dei suoi libri, cioè questo famoso saggio metodologico, che si chiama appunto Spie e radici di un paradigma indiziario, in cui Ginzburg dà delle categorie che possono costituire uno schema forte della storia iniziale. E le categorie sono la prova, quelle che lui pone, possono essere altre, come qui poi dico, accenno, però le categorie che lui pone sono la prova, la serie, il caso. Allora, di fronte a una strutturazione mentale che ha prima di tutto non una pregiudiziale nella ricerca, ma che ha una volontà anche revisionista della ricerca, avere appunto questa costituzione mentale, questa costituzione mentale fatta di categorie che io tengo forti, perché le prove, gli indizi, il caso, apparentemente appunto così casuale, ma è qualcosa che conta, perché è dentro un contesto, è dentro un contesto storico, qui capita quel caso, però capita lì quel caso, non capita nel mondo delle nuvole, capita in quel contesto. Quindi queste categorie forti, a mio giudizio, danno la possibilità di procedere ad una revisione o ad una nuova ricerca. Non necessariamente bisogna revisionare quello che è già stato scritto, studiato, eccetera. Comunque danno la possibilità di una revisione o di una nuova ricerca che è assolutamente, io ritengo assolutamente lecita, che ha cioè una sua, non credo che come scrivo qui, gli indizi sono tracce e le tracce lasciano appunto delle orme sul terreno. Queste orme sono i documenti. E questi documenti, se non li si legge ponendosi quelle domande, a mio giudizio, sulla base anche di una strutturazione mentale fatta di categorie come quelle che richiama Ginsburg, non porta molto lontano. Porta, secondo me, a delle banalità, a delle interpretazioni deboli. Ripeto, la condizione è che non ci sia una ricerca pregiudiziale. Allora, se c'è una ricerca pregiudiziale, non c'è statuto debole o forte che tenga, questo non c'è dubbio. E quindi io penso che intorno a Gramsci, ma non solo, intorno a delle figure, a delle storie, poter iniziare con quello che si ha, anche appunto un indizio strutturato, pensato in un certo modo, possa portarci lontano, possa portarci veramente a una ricerca e una revisione che è importante. Qui dentro sono state poste delle domande, questo Colombo ha citato tanti saggi, io non sicuramente li letti, anch'io non li cito, no? Però state poste delle domande. Sono state date delle risposte, alcune parete un po' deboli, altre più forti, più convincenti, ma certo questo libro, con quel criterio, spesso qui nell'introduzione che Angelo ha posto, credo che abbia dato davvero su Gramsci delle novità, non solo interpretative, ma una capacità di ricerca di cui ti ne racconto. Io ringrazio Marco Giannantoni per questo suo intervento ricco di stimoli. Aggiungerei soltanto una cosa che riguarda l'approccio del libro rispetto alla problematica gramsciana. Ed è si ricollega all'intervento del professor di Marco Giannantoni, ed è, riguarda porsi rispetto alla figura di Gramsci non rifiutando il confronto con quelle narrazioni che non hanno magari una solidità scientifica, ecco, così grande. Penso sia un valore aggiunto perché spesso gli studi per la storiografia accademica poco si interessa di ciò che proviene da altri ambienti, specie dal dibattito pubblico. Però invece penso sia importante questo libro, come anche in generale, più in generale l'attività della rivista di storia magista in cui questo libro si colla, è importante prendere spunto da alcuni nodi che vengono posti da sedi anche diverse da quelle universitarie per costruire o anche spesso decostruire stereotipi che tendono a sedimentarsi poi. E la vicenda del, insomma, degli studi che sono stati realizzati sui bambini negli ultimi anni, da questo punto di vista, è abbastanza emblematica. Detto questo, io passerei la parola al professor Dorsi, che ha appunto curato questa corposa introduzione, che cerca di dare anche un po' un elemento di struttura ai saggi che seguono poi all'interno del libro. Grazie. Beh, io faccio un intervento breve perché vorrei magari sentire un po' se ci sono degli stimoli da parte della sala. Dopo essermi scusato per il ritardo, ma c'erano problemi di treni. Sì, avete già detto molte cose, che dire. Io vorrei insistere intanto però sul fatto che questo volume fa parte di questo insieme culturale con una forte tensione civile che è Historia Magistra, che appunto non è solo una rivista cartacea, addirittura abbiamo anche avviato un'attività editoriale suscitando le preoccupazioni di Marzio Zanantoni, che naturalmente vede un concorrente, noi pericolosissimo, un sito che finalmente adesso stiamo cercando di rivitalizzare, poi avrete una comunicazione. E sottolineo anche il fatto che Historia Magistra credo una caratteristica assolutamente unica, il fatto di avere queste redazioni un po' sparse territorialmente, e stiamo appunto occupando l'Italia un po' alla volta. L'egemonia dei comunisti si materializza anche in questo modo. Però adesso sono stato etichettato come liberale, sono tranquillo perché mi pare che nessuno può più obiettare nulla. Abbiamo tolto la parola anche allo titolo. La prima cosa che voglio dire è questa. La seconda, di nuovo, riguarda Historia Magistra, che è una scuola. Historia Magistra è nata come appunto a partire da un gruppo di studenti, cioè non è stato un mio impulso, un gruppo di studenti alla fine di un corso universitario, un po' tra i fumi dell'alcol naturalmente, insomma, siamo andati a fare una cena, e alla fine mi dissero: professore, facciamo una scuola di storia. E disse: vabbè, c'è già l'università. Loro replicarono: sì, ma non ci dà quello che noi vogliamo. E cosa volevano? Volevano intanto appunto intervenire un po' più nel merito, per esempio le questioni che poneva adesso Marzio Zanantoni, ma allo stesso tempo volevano materializzare la frase di Benedetto Croce. Io cito sempre Croce per evitare, no? Anche per confermare che sono liberale. Quando Croce scrive: l'ufficio dello storico è un ufficio eminentemente civile, ufficio nel senso di officium, di compito, di dovere. E se lo dice Croce, io sto a una botte di ferro, no? Praticamente. E quindi, cioè, non si può separare la storia dalla politica, è una scempiaggine. Non è un caso che storia e politica, le stesse parole, nascono contemporaneamente, no? Circa sei secoli prima dell'era volgare, anticristo per dirla alla cristiana. Dunque, e quindi volevamo, da una parte, cioè, questi ragazzi volevano scommettere con me sulla possibilità di abbinare il massimo di rigore scientifico, nei limiti delle capacità, insomma, il massimo di rigore scientifico con il massimo di impegno militante. Una scommessa difficile su cui abbiamo puntato. E quindi c'era anche il fatto, come dire, dell'entusiasmo giovanile, però appunto la rivista, poi appunto è nata poi la rivista dopo molto tempo. Vorrei ricordare che tra le prime cose che noi abbiamo fatto, quando ancora non c'era la rivista, nel lontano 2003, noi organizzammo un grande convegno che durò 4 giorni, intitolato Revisione e revisionismi nella storia d'Italia. Cioè, io ho il chiodo fisso, diciamo la verità, ognuno ha i suoi chiodi fissi, questo è il mio. Cioè, io cerco da anni di distinguere revisione dal revisionismo. Un po' è emerso, però vorrei sottolineare appunto la revisione è un elemento essenziale. La conoscenza storica va considerata come una specie di grande edificio che viene costruito nel corso dei secoli e dei millenni, no? A questo edificio via via si aggiungono mattoni nuovi, a volte cade un mattone perché è obsoleto e tu lo sostituisci, aggiungendo, correggendo, rivedendo, ma la conoscenza storica non procede per salti, non procede per rovesciamenti, procede appunto questo moto continuo di correzione e di aggiunta sulla base di elementi che sono l'accesso di fonti nuove, perché è evidente che se troviamo il famoso 34esimo quaderno dovremo rivedere i nostri giudizi, ma sulla base anche del perfezionamento, in cui ganci liberale, del perfezionamento delle tecniche della ricerca storica, ma soprattutto di un elemento soggettivo impalpabile, vale a dire la capacità di porre domande. Giustamente è stata evocata qui la parola domanda. La tradizione del metodo storico nasce proprio dal tema della domanda, di Frage. Il metodo storico nasce in Germania, grosso modo nella seconda metà del secolo XVIII a Göttingen. Benissimo. E il problema su cui si interrogava proprio qual è la domanda di Frage, qual è la domanda? Ancora Croce ci ha spiegato che esistono due tipi di domande. La domanda puramente accertativa, che lui chiama filologica, cioè che cosa è esattamente successo il 14 luglio 1789, e poi invece c'è un altro tipo di domanda, che lui chiama storiografica, e che ci riporta stranamente a Marc Bloch, che pure non ci azzecca nulla con Croce, cioè vale a dire una storia problematica. Cioè la domanda problematica o storiografica, come la chiama Croce, è quella che non si limita a ricostruire i fatti, ma prova a interpretarli sulla base della soggettività dello studioso, della studiosa, no? Capacità di porre domande nuove anche a questioni apparentemente risolte una volta per tutti. Cioè in storiografia non ci sono mai questioni risolte in maniera definitiva, no? Che dici vabbè, abbiamo messo la tomba su quella pietra tombale. No, c'è sempre la possibilità di aggiungere, però non procede neanche per rovesciamenti. Infatti io ho coniato anche un termine, vorrei che poi prossimo devoto lo registrasse: rovescismo, fase suprema del revisionismo. Cioè il revisionismo, giunto alla sua fase suprema, diventa rovescismo, appunto, che è il rovesciamento di giudizi che sono acquisiti sulla base dei documenti, perché appunto dobbiamo anche distinguere sempre tra la storia come chiacchiera, che non è storia, la storia come scienza che si fonda sui documenti. Allora, poiché sul caso Gramsci abbiamo assistito a un trionfo della doxa, cioè un trionfo dell'opinione, l'opinionismo, per cui tutti potevano dire la loro, mi è sembrato giusto, sulla base proprio di quello che facciamo come rivista, provare a opporre invece la concezione della storia come episteme, cioè come scienza. Ovviamente non è una scienza esatta, no, ammesso che esistono scienze esatte, sappiamo che anche le scienze esatte non stanno poi tanto bene, no? Cioè, la storia non sta bene, ma non è che stanno tanto bene pure le altre. E quindi abbiamo preso Gramsci come caso di studio, un po' perché siamo tutti un po' variamente influenzati da Gramsci, che riconosciamo come una delle nostre icone, per così dire, e poi perché effettivamente era nato un dibattito pubblico intensissimo, a partire appunto dal primo libro di Lopipero, il quale Lopipero, parlandone da vivo, perché insomma era vivo, il quale Lopipero aveva pubblicato un libro su Gramsci nell'anno 1979, un libro significativo sulla lingua, in Gramsci, che Gramsci, come sapete, forse è stato molto studiato negli ultimi decenni dai letterati e dai linguisti. Ebbene, dopodiché, dal 79 al 2012, Lopipero è scomparso dalle cronache, nel senso che ha fatto anche l'assessore in un paese della Sicilia, non vi dico il partito, potete poi indovinarlo se volete, ma non... e non si è mai più occupato di Gramsci. Improvvisamente è come in un film dell'orrore, no? Cioè è stato scongelato. Esce fuori lo pigiato e ancora vivo lo pigiato. Nessuno sapeva che Lopipero fosse vivo, che era un borgo originale. Lopipero è vivo e non lottava insieme a noi. Lopipero si è messo a... ha scoperto Gramsci. E peccato che dal 79 al 2012, poiché la bibliografia gramsciana ha superato i 20.000 titoli, in circa 40 lingue del mondo, Lopipero non è che ha fatto il tempo ad aggiornarsi. E quindi, un po' random, si è messo a leggere le lettere di Gramsci. La sua fonte sono state le lettere, e ha deciso che di quelle lettere andava fatta una lettura in chiave psicanalitica, ermeneutica e criptica soprattutto. Cioè, adesso vi spiego io cosa voleva dire Gramsci. E quindi ci ha raccontato che quando Gramsci scrive a Giulia, in realtà si riferisce al partito, quando scrive a Tatiana si riferisce all'Unione Sovietica, ha fatto tutta una specie di gioco dell'oca, no? E in realtà io fossi Giulio mi sarei veramente seccato, perché stai scrivendo a me e stai scrivendo al partito. Vabbè. E quindi da una lettura sotto traccia delle lettere, in cui ogni parola significa un'altra cosa. Su questo poi, se volete, ci possiamo approfondire, ma insomma, e sulla base di questo, diciamo, metodo opinabile, ma insomma, e sulla base di indizi, quali sono gli indizi? Il fatto che i quaderni sono stati numerati per la prima volta dalla cognata Tatiana, che ha fatto una numerazione con degli errori. Questi quaderni sono stati poi rinumerati con delle etichette, e lì c'entra pure Valentino Gerratana. E allora sono andati a vedere cosa c'era sotto l'etichetta. Non sempre ciò che c'era sotto corrispondeva a ciò che c'era sopra. Primo indizio. Secondo indizio, in varie prese di posizione pubbliche, in documenti, si parla di 33 quaderni, 34 quaderni, una trentina di quaderni. Addirittura c'è un documento che dice 30-40 quaderni. Allora qui però dice, ah, allora vedi, c'è qualcosa che non va, c'è del marcio in Danimarca, secondo indizio. Terzo indizio di carattere testuale, vale a dire, si è messo a leggere i quaderni e scopre che Gramsci, facendo delle estrapolazioni, no, dice, cita delle frasi, ma vedete che questo qua è liberale, non è mica comunista, no? E quindi, mettendo insieme le tre cose, arriva alla conclusione. Qual è la conclusione? Che, appunto, la numerazione non sempre torna. I documenti e i discorsi di vari leader parlano di 30, 33, 34, 40 quaderni. Il contenuto dei quaderni, sulla base di questa citazione, è un contenuto non comunista, quindi si deduce che Gramsci abbia messo nero su bianco questa sua raggiunta nuova convinzione, e poiché non c'è espressamente, expressis verbis, non c'è espressamente esposta nei 33 quaderni, si deduce che ci sia un 34esimo quaderno o forse un 35esimo, e in un dibattito lui riesce a dirmi che non escludo che siano tre i quaderni scomparsi, anche perché lui dice le ultime righe di Gramsci sono della prima metà del 35, però nessuno gli aveva spiegato lo libro che Gramsci ha avuto una serie di crisi, adesso non entriamo nel merito delle varie malattie di Gramsci, per cui lui dal primavera 35 in avanti non scrive più. Allora qui però ribatte, sì, però ha scritto le lettere, ma voi capite che è una cosa diversa scrivere ogni tanto una lettera alla fidanzata, alla sorella, alla cugina, e scrivere, cimentarsi sulla concezione materialistica della storia, è un'altra cosa. Vabbè, e quindi mette insieme sto castello che non avrebbe avuto alcun effetto se puntini puntini, se uno, Luciano Campano non l'avesse sostenuto, lo Pipero è diventato poi l'agente, no? Come l'agente di Campano, ovviamente Campano ha un'autorevolezza che lo Pipero non ha, e due, se il mainstream giornalistico non gli avesse dato una risonanza pazzesca. Perché? Perché questo si inseriva appunto in una tradizione ormai, che poi è stata accennata anche prima, una tradizione appunto di leggende su Gramsci che ritornano ciclicamente. Già in passato era tornata l'idea, c'era stata avanzata l'idea, però senza entrare nel merito, di un quaderno scombiato, ma siamo sicuri che i quaderni siano solo quelli, per esempio. Oppure pensate alla storia della conversione dal cattolicesimo di Gramsci, che abbiamo fatto i conti ogni 5 anni intorno. A partire dagli anni 50 c'è sempre una cugina di una suora che è una sorella di del portinaio, del convento, della clinica qui si sana dove Gramsci è morto, che racconta, io l'ho visto baciare, chiederla di portargli l'immaginetto della Madonna e la baciata, eccetera, eccetera. E così via. Ci sono una serie di leggende che tornano, oppure ci sono una serie di vexate questioni, no? Appunto, la principale delle quali è quella già accennata del rapporto con Togliatti, su cui veramente sentiamo le cose più bizzarre. E citiamo solo una, il titolo d'esempio, il fatto che lo Pipero, per esempio, è uno di quelli che contrappone Gramsci a Togliatti, dove Gramsci fa la parte del buono, Togliatti fa la parte del cattivo. Contemporaneamente, uno sciagurato che si chiama Alessandro Orsini, sponsorizzato da Roberto Saviano, quindi un altro sciagurato, con due pagine sulla Repubblica, riuscì appunto a contrapporre invece Gramsci a Turati, dove Gramsci faceva la parte del cattivo. Un po' come lo sbirro buono e lo sbirro cattivo dei film polizieschi americani, no? Solo che il povero Gramsci a seconda, no, veniva tirato per la giacca, ora gli toccava fare la parte del trinariciuto, ora invece del liberale, insomma non gli lasciava mai fare la parte di Gramsci, questa è la verità. E allora abbiamo provato, proprio l'idea era nata, qualcuno disse in una redazione della rivista, ma vogliamo parlare di Lo Pipero? E io dissi, ma proviamo a ragionarci un po', e poi di là ho elaborato il questionario, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che questo libro voleva un po' distinguere il grano dall'olio. Dopodiché, un'ultima notazione, a differenza dei gramsciani, me too, I'm gramsciano, ma a differenza dei gramsciani di stretta osservanza, che sono una chiesa, io essendo laico, come dire, sono sempre un po' ogni genere di chiesa, mentre i gramsciani, che siamo di stretta osservanza, hanno posto, come dire, un fan de no a seguire allo Pipero, io ho detto, vabbè, andiamo a guardare le carte, no? E quindi, io credo che lo Pipero abbia avuto un merito, quello di indurci a guardare i quaderni nella loro materialità. Finito, niente altro. Tutto il resto è veramente chiacchiera. Ci pongono altre domande, insomma, perché però adesso qui non le espongo. E quindi, comunque, diciamo così, nella mia introduzione ho cercato di esprimere questa concezione un po' di metodo, per così dire, cioè tutto quello che può servire a arricchire la mia conoscenza io lo considero degno di attenzione. Dopodiché vado a guardare e dirò se questa cosa è convincente, perché è convincente o se non è convincente. E infine, appunto, io ho usato la cortesia, perché dopo Pippa e a Canfora, Canfora doveva collaborare, l'ultimo momento si è tirato indietro, mi è spiaciuto, di mandare loro i testi prima, perché loro temevano sarebbe stato un plutone di esecuzione. E quindi ho dato la possibilità di esporre le loro posizioni in maniera piana, per così dire. Io qui mi fermo, perché magari tu vuoi dare la parola. Volete farmi un applauso? No. Se ci sono già domande, insomma, se il dibattito pazienti, fino a, ha suscitato qualche stimolo, insomma. Non mi rifiutiamo un altro di interventi nostri. Volentieri cedo la parola al pubblico. Mi conviene fare domande. Avrei una domanda da fare in merito al significato che non conosco della storia sacra. Cosa si intende per storia sacra? Sì. Non so se lei conosce, tu, lei so, conosce la storia del partito comunista di Spriano. O comunque ci sono delle, qui facciamo riferimento in particolare alla storia del partito comunista, alla storia della sinistra, ci sono autori che hanno raccontato negli anni la storia del Partito Comunista, la biografia di Gramsci, qui vale in generale per tante cose, ma qui facciamo riferimento alla sinistra. Queste storie, a cominciare da quelle che gli stessi protagonisti del Partito Comunista scrivevano, cioè Togliatti, Longo, queste storie hanno costituito la storia sacra, cioè per ogni militante come un cattolico con la Bibbia. Quindi c'è una sorta di apologia praticamente della. Certo, in queste storie, certamente il protagonista di queste storie, forse Gramsci, non quello è tutto ultimamente tirato per buono e cattivo, ma forse Gramsci, forse il Partito Comunista, che fossero altre figure, sono sostanzialmente buone. Già, sono sostanzialmente, hanno al loro interno, costituiscono per l'immagine pubblica e per l'immagine dei militanti del Partito Comunista, dei Gramsciani, dei valori positivi. Possono aver avuto dei loro momenti di crisi, dei loro momenti negativi, ma alla fine la loro storia è quella di un soggetto positivo. Positivo perché ha positivo per il bene della nazione, per esempio, positivo per i militanti stessi, positivo per gli studiosi che si sentono in qualche modo, si sono sentiti tranquilli o tranquillizzati da questa storia. Questa storia era basata sui documenti in linea di massima, a volte solo magari testimonianze, a volte racconti, a volte leggende, anche il nulla, però sostanzialmente, siccome, certo io sono di parte, ma le persone che hanno, gli storici, gli studiosi che ci hanno raccontato questa storia sacra, erano persone di alto livello dal punto di vista tecnico, diciamo così, erano storici importanti, autorevoli, ma più che autorevoli conoscevano il loro mestiere. Per lo più queste storie sono state fatte sui documenti. Anche chi era estremamente di parte, Togliatti, per esempio, dopo Gramsci, ha scritto la storia delle origini del Partito Comunista sui documenti. Non si è messo lì a raccontarci una favola. Il problema di fondo qual è? Che, lo diceva prima anche Angelo, prima di tutto possono sorgere dei documenti nuovi, perché certamente chi va negli archivi e guarda meglio, trova dei documenti nuovi. Se si pone delle domande, se ha delle curiosità, e può trovare anche per caso, però se si pone delle domande, se si pone delle curiosità fondate, con uno schema mentale non debole, trova dei documenti nuovi. Allora, di fronte a questi documenti, che magari smentiscono figure o momenti importanti di quella storia sacra, che cosa si fa? La si mette in discussione, cioè se si è convinti che la storia non è scritta una volta per sempre, ma se trovo un documento nuovo è mio dovere di storico, di studioso, riportarlo e anche contraddire o negare quello che anche un autorevole, bravissimo storico ha scritto in tempi passati, lo faccio. Il problema è che i soggetti, parlando di questi soggetti qui, hanno delle implicazioni politiche, civili, cioè sulla nostra storia, non solo personale, ma sulla storia d'Italia, è che mettere in discussione certi punti, certi momenti, certi avvenimenti, certe persone, vuol dire non semplicemente stabilire che una certa battaglia invece del 15 luglio c'è stata il 16, e non cambia molto, o che un libro, la prima edizione era del 21 e no, era del 22, ma trovare qualcosa che ci dice che un'azione partigiana non era stata così gloriosa, ma addirittura era stata perdente, o addirittura non si era svolta in quel modo, si è creata una leggenda, ci sono state cose anche non chiare, appunto oscure, anche negative, vuol dire rivedere, magari è un'azione importante, è qualcosa che ha pesato sulla storia italiana, vuol dire rivedere un pezzo di storia importante. Quindi abbiamo una storia sacra e la necessità comunque per il valore che ha la ricerca storica di revisionare questa storia sacra. Senza, diciamo, poi cadere nel revanchismo in qualche maniera. Sta alla capacità, correttezza, volontà, pregiudizi di ciascuno. Io ho spiegato prima, esiste anche un revisionismo cattivo, perché un conto appunto revisionare, un conto è negare quella storia sacra, non perché si è contrario o si è di opinione diversa, ma perché si ritiene che quella storia non ha nessun valore scientifico, perché era stata scritta esclusivamente in modo apologetico, per stabilire, fondare una tradizione, un'immagine, dare dei valori positivi. E quello per me è un revisionismo cattivo, che non porta, che porta sì da qualche parte, ci dà qualche indizio nuovo, ma non produce storicamente un avanzamento. Se posso dire una cosa, credo che si ricollega un po' anche alla domanda. Volevo dire, forse non lo so, per anche dire una cosa da parte nostra, cioè della mia generazione, appunto quello che dice Marzio Zamantoni è vero, che come dire, la loro generazione, avendo vissuto in maniera come dire, più personale, avendo avuto un certo tipo proprio anche educazione, non so, forse non lo so se fa più fatica o comunque forse è un'operazione più complicata da fare. Io penso che la mia generazione, adesso stavo contando quanti dei saggi scritti in questo volume sono appunto, e sono più o meno una decina, ma voglio dire, negli ultimi vent'anni sono venuti fuori una serie di documenti che effettivamente anche su Gramsci eccetera non erano a disposizione prima degli studiosi. C'è l'edizione nazionale in ballo, c'è l'International Lynch Society che appunto hanno coinvolto un numero veramente notevole di giovani, diversamente giovani, che però con altri occhi forse hanno guardato anche a questi documenti, si sono posti altre domande, eccetera. Due o tre settimane fa, sempre come storia magistra, mi fa piacere ricordarvi perché tutti e tre gli autori dei volumi che adesso citerò fanno parte della lezione di Storia Magistra Sparse per l'Italia. Appunto, questi tre soggetti hanno prodotto delle biografie di dirigenti del Partito Comunista notevolissime, appunto Longo, che è stato citato, ma anche Secchia e Grieco, anche loro poi, vabbè, ciascuno con evidentemente la sua fortuna, la sua storia nell'ambito del partito e fuori, nell'ambito della storia d'Italia, che però, voglio dire, sono importanti, no? Adesso appunto sono con nuovi documenti, le nuove generazioni sono in grado anche di produrre dei saggi di scientifici di livello notevole, che secondo me appunto in qualche modo rientrano, fanno avanzare la ricerca, eccetera. E volevo dire, non mi pare che siano, come dire, che siano venute fuori delle omissioni impressionanti rispetto alla storia precedente, per cui no? Perché sostanzialmente abbiamo quegli storici avevano un certo valore, avuto un rigore scientifico, per cui appunto che scrivano altro da quello che era effettivamente successo. Scusate, se ci sono altri interventi, altre domande. Beh, abbiamo parlato si è accennato a un revisionismo positivo, no? Si può pensare, diciamo, a una forma di liberalismo positivo nell'opera di Gramsci? Cioè, qualcosa che sarebbe, qualcosa che riattualizzerebbe pure la sacralità di Gramsci e amplierebbe, diciamo, la sua la portata della sua visione, no? Cosa intende per liberalismo positivo? Spiego un attimo, perché quello del liberalismo positivo. Qualcosa di, quindi, di accettabile, un senso anche, diciamo, dei semi sparsi nella storia sacra. Cioè, se nella storia sacra ci sono dei germi magari non sviluppati fino a un certo punto, però, diciamo, per la nuova lettura su questi nuovi documenti potrebbero invece sviluppare anche in termini liberali, che è una critica che è quella del femminile, no? Cosa di accettabile dico solo una cosa al di là della questione appunto del liberalismo, del liberale, esatto, cioè, sì. Però tenga conto di una cosa, che la grandezza di Togliatti è stata quella di far accettare in qualche modo, o di diffondere, divulgare, costruire la figura di Gramsci e farla diventare una figura nazionale da comunista, quindi non da liberale, cioè non ha dovuto trovarci dei germi liberali per farlo diventare un patrimonio nazionale. Questa è stata la grandezza, secondo me, di Togliatti. Certo, se l'è trovato lì, Togliatti ha trovato i quaderni, ma ci voleva intelligenza, capacità strategica, culturale, politica, per rendersi conto che nei quaderni c'era, possiamo anche definire quel liberalismo, diciamo, c'era, cioè, una cultura che non era solo un patrimonio comunista. Esatto, sì, non sì, era sì. Un patrimonio ma nazionale, certo. E quindi per certo. Forza anche vogliamo chiamarlo liberale, di conseguenza vuole piace questo termine, no. E vuole chiamarlo liberale, quindi essendo un patrimonio nazionale, però va bene, ma se intenderci, certo, come diceva Bobbio, esagerò Manetti. L'indipendenza intellettuale, si può parlare di Gramsci, forse. In un altro, qualche anno fa ho curato un altro volume, un grosso volume che si intitola Il nostro Gramsci, è aperto solo ai giovani, ha collaborato solo ai giovani, infatti io ho fatto anche lì solo il saggio introduttivo. Ebbene, lì appunto volevo far emergere Gramsci come un pensatore nazionale, cioè un pensatore che ha introiettato tutta la storia italiana. Infatti il volume parte da Dante e arriva a Piero Gobetti, sono 52 autori, come dire, che sono presenti, gli italiani soltanto sto parlando, nel pensiero di Gramsci. Gramsci effettivamente non smette mai di essere un pensatore nazionale, ma anzi ritiene che per guardare al mondo devi partire dal locale, dalla Sardegna, da Torino, traguardarlo nel nazionale e guardare al mondo. Solo così tu sei veramente cosmopolita e internazionalista, solo se non hai perso queste radici, questa capacità di guardare il mondo attraverso questi vari specchi. E lui ha introiettato, quando Gramsci fonda l'Ordine Nuovo, 1 maggio 19 a Torino, rassegna settimanale di cultura socialista, Che cosa insegna? Insegna, certo, che la classe operaia ha bisogno di una sua autonoma cultura che parte dal suo luogo di lavoro, che è la fabbrica, e quindi perché senza una propria cultura non puoi fare una politica autonoma che porta alla rivoluzione. Ma insegna anche che la classe operaia, per fare una sua cultura autonoma, deve introiettare tutte le grandi tradizioni culturali che l'hanno preceduta. Cioè Gramsci non avrebbe mai accettato le scempiaggi della rivoluzione culturale cinese, per cui non si vietava, no, gli autori occidentali. Gramsci si arrabbia quando viene vietata la musica di Wagner a Torino perché è tedesco, ma siamo matti, per dire, no? Quindi, infatti Gramsci è anche un pensatore olistico e onnivoro allo stesso tempo. Infatti io sostengo, in un altro mio libro, sostengo che Gramsci è un marxista che rompe la gabbia del marxismo, per così dire. Cioè, ma non smette di essere marxista, la allarga, fa tutta un'opera di dilatazione. Cioè, quando Gramsci introduce concetti come i subalterni, non parla più di classe operaia, cioè l'ultimo Gramsci, che è stato poi ripreso, sviluppato in tutta una serie di correnti di studio che vanno dagli Stati Uniti all'India, alla Corea, al Giappone, eccetera, eccetera. Oppure quando Gramsci introduce il concetto di Stato allargato e cerca di esaminare in maniera anticipatoria quali sono i meccanismi repressivi moderni, non più militari, ma polizieschi, dove intende per polizieschi non solo l'uso della polizia che esercita il monopolio della forza fisica, ma la polizia della mente, cioè gli strumenti di costruzione del senso comune, quindi attraverso il medico, attraverso l'editoria, la salunga, eccetera, eccetera. No? Introduce tutta una serie di elementi che rompono lo schema marziano, ma continuando a ritenersi ed essere marxista, marxista e marziano, no? Ma del resto già quando lui scrive, no, il famoso articolo Rivoluzione contro il capitale, 24 dicembre del 17, in cui sostiene i bolscevichi, che erano pure invece accusati dagli ortodossi marxisti, di non essere marxisti, perché non è possibile fare una rivoluzione marxista là dove non c'è il capitalismo. E queste cose Arturo Colombo le sa bene, perché ha scritto anche un libro su Lenin, eccetera, eccetera. No. Oppure quando scrive un articolo che commemora il centenario della nascita di Marx, il nostro Marx, dove dice Marx non è un pastore armato di l'incastro, no, l'autore di una dottrinetta, è pensiero vivo, no? E quindi propone già allora qualcosa che poi svilupperà. Io sono un sostenitore piuttosto della continuità che della discontinuità, su questo c'è un'antica disputa, insomma, va bene. E quindi l'ultima cosa che voglio dire è che appunto noi troviamo già nel Gramsci giovane cosiddetto e poi nel Gramsci successivo troviamo degli elementi che differenziano il suo comunismo. È un comunismo critico, un comunismo umanistico, chiamatelo come volete, certamente non puoi chiamarlo liberale, insomma. E soprattutto io combatto, al di là delle etichette, combatto l'operazione culturale e scientifica di Lopipero. Esatto. Ricordo che il libro è disponibile lì al banchetto insieme alla rivista. Ringrazio il laboratorio Lapsus, le relazioni centrale e locale di Storia Magistra e il concetto Magistra. Grazie a tutti.